nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella. Buona domenica, bentornati a Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24. Un programma che, come sapete, cerca come può di battersi contro uno che è il fenomeno fregatura dei nostri tempi, almeno per le donne, non solo per loro, ma soprattutto per loro. Il fenomeno è il multitasking, lo sapete, e chi ci ascolta ogni domenica sa che il multitasking è l'oggetto del nostro scontento e ne parliamo quando e come possiamo. Ed è proprio su questo che voglio dirvi di più questa domenica. Perché se da mesi qui a Nessuna è perfetta sosteniamo che il multitasking è una fregatura, ora ci sentiamo un po' meno soli, perché pensate, c'è anche un neuroscienziato del Massachusetts Institute of Technology, si chiama Earl Miller, ed è giunto alla seguente conclusione. Il nostro cervello, dice Earl Miller, non è cablato per il multitasking. Quando le persone pensano di fare multitasking, in realtà stanno solo passando da un compito all'altro, più o meno rapidamente. E se, per paradosso, si spostano ancora più in fretta, diventano palesemente meno efficienti. Fanno meno bene l'una e l'altra cosa che hanno cominciato a fare. E sapete che c'è? Che Earl Miller non è il solo neuroscienziato che la pensa così. Ce n'è un altro che si chiama Daniel Levitin ed è il direttore del laboratorio scientifico della McGill University. È ancora più drastico nel suo punto di vista e nel suo libro di Organized Mind. Il multitasking, scrive, ci rende meno efficienti e comporta un vero e proprio esaurimento delle funzioni cerebrali. Per esempio, quando stiamo cercando di concentrarci su un'attività e riceviamo una mail e non la guardiamo perché continuiamo a fare quello che stavamo facendo, ebbene, il nostro quoziente intellettivo, dice il neuroscienziato della McGill University, rischia di perdere 10 punti più di quanto succeda a un fumatore di cannabis. Insomma, ci siamo capiti? Anche i neuroscienziati sono insieme a Nessuna è perfetta nella battaglia contro il multitasking, che è, lo diciamo e lo ripeteremo, una grande fregatura. Non so se capita anche a voi, ma quando ci sono questi stacchetti, a me verrebbe da ballare, che è una cosa molto bella ed è anche una cosa molto rilassante. Ma di questo non parleremo questa domenica, anche se mi auguro che ogni tanto voi, almeno forse ci siete stati ieri sera, andiate a ballare. Parleremo di tutto il contrario di quello che è rilassante, parleremo di stress, proprio la domenica direte voi, ma è meglio saperle certe cose perché poi lunedì è praticamente subito e spesso noi cominciamo la settimana stressati, senza voglia di tornare a lavorare, senza voglia di vedere le stesse facce. Lo stress da lavoro è un vero e proprio grande problema. Pensate che allo stress e all'ansia il settimanale Le Point, il settimanale francese, ha dedicato la sua copertina e molte pagine concentrate sul saggio che è stato appena pubblicato in Francia del giornalista americano Scott Stossel. Ma che cos'è lo stress da lavoro e quali conseguenze può produrre nella vita di tutti noi? Di questo parliamo con l'agente provocatore di questa domenica, che fa un lavoro che apparentemente dovrebbe essere esattamente il contrario dello stress. Tutto il contrario. Cosa c'è di più creativo, di più rilassante che preparare un buon piatto? Quanti di noi il sabato, la domenica si rilassano cucinando? Bene, ma se lo fai per lavoro, se quella è la tua professione, Lo stress pesa. Qualche settimana fa ha suscitato infatti grande impressione la morte dello chef franco-svizzero, un chef pluristellato, famosissimo, Benoît Violier, che ha sconvolto il mondo della cucina internazionale e dei suoi colleghi suicidandosi. C'era dietro la tragica scelta di Benoît Violier anche un problema economico molto grave. Pare che fosse stato truffato in un giro di acquisti di vini pregiatissimi per i quali si era indebitato. E tuttavia, non è il primo chef di grande livello che ha scelto questa via tragica per uscire da un forte stress professionale. Ed è di questo e anche un po' d'altro, ovviamente, perché è domenica e vabbè che parliamo di stress, ma non vogliamo stressarci, che parliamo col nostro agente provocatore. Benvenuto e buona domenica a Davide Oldani, il nostro agente provocatore di questa settimana, chef stellato, ideatore della cucina pop, alta qualità e accessibilità, lo chef che ha aperto nel 2003, quindi da parecchi anni, il suo ristorante, il Do, a Cornaredo, in provincia di Milano, che è il suo paese di origine. Allora, buona domenica, Davide Oldani. Io citavo prima lo stress da creatività, proprio prendendo, diciamo, a esempio un caso che è recentissimo, quello che ha stupito un po' tutti nel vostro mondo e non solo, lo chef franco-svizzero Benoît Violier che si è ucciso improvvisamente. Lì, certo, c'erano anche delle questioni economiche, si è detto che Violier sia stato truffato, però sembra impossibile che la vita da chef procuri stress e invece lo procura. No, assolutamente sì. Buongiorno a tutti, buona domenica a tutti e grazie di questa opportunità. No, allora, la vita da stress credo sia la vita un po' in generale, questa foga di voler fare tutto e sempre a ogni costo, che fa parte un po' del modo di vivere veramente attuale. Quella da chef probabilmente è un po' più stressante perché c'è l'impegno dilazionato in due, mezzogiorno e sera nel ristorante, però se fatto con cognizione di causa, con passione, secondo me questo stress non esiste. Naturalmente in questi casi, uno ne cito del 2003 che era Bernard Loiseau prima, sì, adesso Benoît poche settimane fa, sono casi, voglio dire, una percentuale quasi inesistente nel mondo della cucina, però fa molto baccano, fa molto chiasso. Perché? Perché la cucina è così in voga, è così ben esposta. Ma lei, Davide, ha mai perso il sonno per ansia da stella Michelin? No, devo dire di no, grazie a Dio quando ho iniziato con la mia attività, anzi ho sempre dormito meglio e ancora oggi dormo meglio perché ho la possibilità di fare anzitutto quello che voglio con rispetto dei miei collaboratori e poi soprattutto di seguire una parte che è molto profonda e molto etica. E se si segue un po' la parte etica si rischia naturalmente di avere il buon ritorno dalle persone perché non c'è il passo più lungo della gamba. Certo. E credo che lo stress subentri nella vita generale proprio perché si tenta di volere quello che non si può avere. Poi, ma c'è molta competizione tra voi chef stellati? Sì, devo dire che in Italia rispetto a quando ho iniziato tipo 28 anni fa ad oggi la competizione è aumentata, ma credo sia una competizione sana perché sappiamo che in realtà non è una corsa a 100 metri dove uno arriva a 10 secondi e 20 e l'altro a 10 secondi e 19 a secondo. Sappiamo che se c'è un gruppo che lavora e che è unito si può arrivare a una qualità del paese stesso, quindi non c'è più una competizione del primo secondo ma c'è una competizione di gruppo che fa bene alle persone e ai nostri ospiti che vengono a mangiare nei ristoranti. Questa trasmissione si chiama Nessuna è perfetta ed è prevalentemente dedicata alle ascoltatrici, alle donne che ci seguono, che magari lavorano, che hanno competizione o no sul mondo del lavoro, ma hanno sempre, come tutti noi, no, tanti problemi. Perché voi chef, diciamo che avete avuto di recente una grande popolarità, anche grande a MasterChef, il programma di Sky, sì, perché siete tutti maschi? C'è soltanto la signora Bastianich di donna? No, non è vero, perché allora l'esempio più grande è che fino a 10 anni fa in Italia c'erano 3 ristoranti tristellati ed erano le chef, erano 3 donne, Feolde, Pinchiori, voglio dire, Nadia Santini e la Valazza. quindi già da lì possiamo capire che... Ma in TV ci andate voi maschi però. questo lo so, c'è da dire che Gordon Ramsay con questi suoi format, MasterChef, Hell's Kitchen o Nightmare Kitchen, ha iniziato nel 1993, quindi si parla già di un po' di anni fa, che sono arrivati in Italia in questi 3-4 anni. Però detto questo, poi io non posso sapere quello che pensano chi fa televisione o le case di produzione. So solo che il palato sicuramente non ha differenze, uomo o donna non ha differenze, perché se uno ce l'ha fino che sia donna o che sia uomo. Poi sulla parte mediatica evidentemente chi produce ha questa idea che il maschio sia, non lo so neanche io cosa possa essere in più. Più telegenico, ma più televisivo, non so, più autorevole. Più bella in televisione, poi è una questione di scelta, voglio dire. Senta, è domenica. Spesso, soprattutto le nuove generazioni, la domenica si svegliano tardi e fanno il brunch. Qual è il brunch perfetto che lei consiglierebbe? Ma il brunch perfetto, naturalmente, non seguirei il filone americano. Perché vorrebbe dire solo colesterolo, uova, bacon, sì, eccetera, ma seguirei un filone mediterraneo ancora di più italiano, che è quello della stagionalità dei prodotti, quello di abbondare con le verdure, fare qualche pesce azzurro e poi, se vogliamo metterla sul un po' più violento, qualche pancake, lo concedo, con poco miele. Pancake e pesce azzurro, è un mix che mi turba. No, ci può stare un pancake, è comunque una cosa neutra, un velo di miele e un pesce azzurro appena marinato, secondo me ci può anche stare. Beh, insomma, provatevelo, ve lo consiglia Davide Oldani, il nostro agente provocatore di questa domenica, che noi ringraziamo moltissimo e speriamo di averlo presto di nuovo qui a Nessuna è Perfetta. Grazie a voi, grazie. Buona domenica, grazie. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta. Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24, programma dedicato alle donne che lavorano e il programma dedicato a chi non crede più nel multitasking. È il momento, lo sapete, della nostra Sunday Girl. Benvenuta, buona domenica Nadia Toffa, da inviata, buongiorno, delle Iene a conduttrice di Open Space, il programma grazie al quale anche le persone che stanno a casa davanti alla TV possono fare domande più possibile curiose a personaggi famosi, e collabora con Geppi Cucciari, con PIF, sempre per le Iene. Mi piace l'idea che, dopo che Hilary Blasi ha lasciato il programma perché aspetta il suo terzo bambino, di donne ne siano arrivate tante. Addirittura tre. È vero, è verissimo, è un mostro sacro per me le Iene, devo dire sono emozionatissima più che con Open Space, anche se era la mia prima avventura. Per me le Iene è casa, vuol dire tantissimo. E tante donne quest'anno. Ma le donne funzionano meglio? Le donne funzionano meglio in TV, secondo te? C'è Teresa Mannino, Geppi Cucciari, la Raffaele. Insomma, vero. Le donne hanno scoperto di riuscire a far ridere. In realtà si sapeva da tempo, però ora è una certezza. Da che cosa dipende, secondo te? Ma secondo me non so se funzionino meglio o funzionano meglio gli uomini, insomma una cosa è certa, che le donne secondo me sono molto sincere, parlano molto col cuore, però allo stesso tempo sono molto concrete, cioè hanno una grande sensibilità, e quindi questa è una cosa che ovviamente abbiamo più degli uomini, però allo stesso tempo abbiamo una grande forza, quindi le donne secondo me sono un pochino più complete degli uomini e riescono forse ad essere più dirette, arrivare nelle case, credo un po' questo. Senti, poi, vabbè, Nadia, sono... si dice sempre, i maligni tendono a dirlo, no? Che sì, le donne possono essere fragili. Il mondo dello spettacolo è un mondo molto duro, così come il giornalismo, così come tante altre situazioni. Una donna è a rischio di burning out, a rischio di stress da lavoro più di un uomo? Allora, a tratti sì, nel senso, io parlo per la mia redazione, che è una redazione soprattutto di uomini, perché le Iene, l'inviato delle Iene passa le giornate sempre fuori, sempre con la valigia in mano, io poi mi sono recata in zone di guerra, io non mi sono mai tirata indietro, ho sempre fatto servizi anche a volte rischiosi, cioè le ho prese qualche volta, insomma sono una che si butta molto nel fuoco, quindi ho il piglio, diciamo, della Iena, però ovviamente farsi rispettare, no, come, non come donna, come inviato, no? Procura dello stress, complesso. Procura dello stress. E tu come lo gestisci questo stress? Detto come va detto, ho talmente tanta energia che lo stress non mi viene, cioè sono molto sul campo, sono molto concreta, sono una bresciana d'occhio, i bresciani sono molto concreti, non si monta alla testa, io sono a testa bassa, faccio il mio. E devo dire che il rispetto me lo sono proprio guadagnato sul campo, cioè mi sono sudata ogni servizio, ogni passo avanti, la conduzione, qualsiasi cosa. Senti, ci racconti come ti sei guadagnata il rispetto? Penso soprattutto alle tante giovani ascoltatrici che ci scrivono e che hanno voglia di sentirsi anche rassicurate. Ci racconti un aneddoto di come hanno cercato di farti uno sgambetto e di come hai reagito? Perché sono cose che possono aiutare anche chi ci ascolta. Ma più che sgambetto, perché sgambetti in realtà è difficile che te ne facciano evidenti, no? Sì. Però ti posso raccontare come sono entrata alle Iene, perché ecco. Mi dice, ma come hai fatto a diventare una Iena? Allora, primo, io ho fatto tanti anni di gavetta e devo dire che serve tantissimo. E poi le Iene me le sono cercate, non è che le Iene mi hanno bussato un giorno a casa e sono venuti da me, oh quanto sei brava, vieni. No, non funziona così, le cose bisogna cercarsele. Io ho trovato il numero della redazione delle Iene, ho chiamato, con un escamotage mi sono fatto passare Davide Parenti, ti giuro è andato così. E lui gli ho detto, guarda, ho un'inchiestina da me, girata da me, montata da me, se vuoi te la porto, va bene vieni. Mi ha detto no la prima, no la seconda, no la terza, no la quarta. E sempre con inchieste diverse arrivavo, quindi sono passati dei mesi, ma io non mollavo, cioè capatosta, dura. E capivi anche quello che poi alla fine sarebbe servito, per cui ti impegnavi. Ecco. Bravissima, dove sbagliavo, cercavo di migliorarmi. Insomma. E poi da lì, quando lui poi mi ha detto di sì, da lì è iniziato il vero lavoro. Perché ovviamente se non hai servizio non vai in onda, perché ero l'ultima arrivata e dunque mi dovevo, giustamente come dicevamo prima, guadagnare la stima dei colleghi e del capo. E la sfida va avanti, cioè non è che è finita, anzi, quindi non bisogna mollare. Cioè io quello che dico ai ragazzi è che bisogna veramente mettersela tutta, cioè se il nostro desiderio ci si arriva, cioè con la tenacia, con la costanza. Senti, si arriva. Vorrei essere esplicita con te, in tante, ma anche in tanti, hanno sempre pensato che far televisione sia una cosa facile, comoda, basta andare a letto con la persona giusta e poi la fai. Guarda, questa cosa tanto mi ricorda la frase che io sento troppo, troppo spesso, cioè ce la fanno solo i raccomandati figli di. Allora, togliamocelo dalla testa, perché sennò una Nadia Toffa alle Iene non ci sarebbe arrivata. Non nascondo che in Italia ci sono i raccomandati, ci sono le persone che usano i mezzucoli per arrivare, ci saranno sempre, ok? Però il dramma che io vedo, e ti giuro che ne vedo tanti perché i ragazzi poi ne incontro anche per strada, è che non sono i ragazzi che non ce la fanno il dramma, i ragazzi che non ci provano nemmeno. C'è questa educazione alla rinuncia, che secondo me dipende tanto dalla famiglia, no? Che tanto ce la fa solo il raccomandato, ce la fa solo il figlio di. No! No, vi prego ragazzi, non pensate questo, andate avanti, determinazione, accettate le sfide, accettate anche le sconfitte, perché le sconfitte ce ne saranno sempre. Mica bisogna aver paura della sconfitta. No, anzi è una crescita, se tu vai in America, a San Francisco, dove nascono tutte le start-up, che ci sono state per fare un servizio, là non si parla mai di fallimento, non esiste la parola fallimento in inglese. Cioè è una crescita la sconfitta, quando tu perdi impari qualcosa, non dalle vittorie, impari dalle sconfitte e ti migliori, allora a quel punto cerchi di prendere meglio la mira. Guarda, ci credo davvero in queste cose che ti dico, giuro. Ci credi al punto che ad aprile uscirà, da un'idea di Gianluca D'Aloisio, un libro una bellissima di idea. Cui tu ci sei come prefatrice, hai fatto la prefazione a questo libro, Cambiare il paese per non dover cambiare paese. E ci sono i consigli che vengono dati da vari professionisti, dal giudice Gratteri, da Dario Fo. L'alternativa della fuga dall'Italia dipende anche da quanto uno ha voglia di impegnarsi. Cioè, se uno dorme fino a mezzogiorno, non può pensare che poi il mondo sia a sua disposizione, sì, giusto? Nessuno bussa alla tua porta. Ecco. Cioè, le Iene non hanno bussato alla mia porta, sono io che me le sono cercate. Poi, posso dirti, è stato difficile, è stato complesso, duro, cioè ci sono voluti anni. Però se è quello che desideri, poi te lo porti a casa, poi o magari non ti porti a casa quello, ma nel contempo tu ti sei conosciuto di più. E perché quindi non è ti sei... che la cosa che all'inizio tu desideri sia quella realmente per cui sei portato. E quindi conoscendoti sei anche più forte, meno insicuro e più contento di te. Questa è un messaggio che io credo sia bello inviare di domenica mattina a chi ci ascolta. A tanti ragazzi che rinunciano prima ancora di provarci, cioè questo che io non ci posso credere. L'essere una giovane donna con tutta questa energia ti porta anche a essere una multitasking, anche tu sei avvelenata dalla cosa di dover fare 5 cose contemporaneamente tutte bene, oppure sì. Selezioni, lo so, è la grande fregatura questa del multitasking. Madonna, c'hai ragione, è un pochino sì, lo ammetto. Che cosa fai contemporaneamente, per esempio? No, ma tutto, nel senso che è talmente poco il tempo, cioè io vorrei avere il dono dell'ubiquità, cioè se io dovessi vivere in un mondo fantasy avrei il dono dell'ubiquità, ecco, fossi una stregona, una maga, avrei quello. grazie a Nadia Toffa che è stata qui con noi, anche lei è imperfetta come noi di Nessuna è perfetta, ma con una grande carica di energia che questa domenica ci ha dato uno sprint particolare. Buona domenica, Nadia. Grazie. A voi, grazie mille, è stato un piacere enorme. Ciao, grazie. Ciao. Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24. Questo è il momento della lettera della nostra ascoltatrice. Giornate di lavoro sfiancanti, notti insonni. Con l'arrivo del nuovo capo in azienda, da un anno a questa parte, la mia vita ormai è ridotta a questa alternanza. Il mio compagno dice che esagero, ma non riesce a comprendere la sensazione con la quale mi sveglio ogni mattina. Nella notte il mio PC ha collezionato almeno 4 mail e appena arrivo in ufficio me ne ritrovo altre 3, il mittente sempre lui, il capo. È ansioso e non fa altro che scrivere, che mettere ansia a noi che lavoriamo con lui. Non nascondo di aver pensato di mollare, mi manca l'entusiasmo che fino a poco tempo fa mettevo in questo lavoro. Ma non vorrei dargliela vinta, magari se ne va prima lui. Come mi devo comportare? Laura. Il capo è ansioso e trasmette ansia alla gente che lavora con lui. È uno dei tanti motivi per cui spesso la gente non va a lavorare volentieri e non vede l'ora di scappare dalla propria sede di lavoro. Ne parliamo con due esperti che sono quanto mai appropriati alla bisogna. Umberta Telfner, psicologa, psicoterapeuta, docente alla scuola di specializzazione in psicologia della salute all'Università La Sapienza di Roma. Buona domenica. Buona domenica. E Vito Ribaudo, direttore del personale di una delle più grandi aziende culturali del paese, RCS, l'azienda del Corriere della Sera, di tanti settimanali, periodici. Direttore del personale con la vena dello scrittore, perché ha scritto l'anno scorso un romanzo proprio ambientato nel mondo del lavoro e dal titolo molto bello, Una grande opportunità. Avete ascoltato quello che è il dramma di Laura, ma penso che sia condiviso veramente da tanti. Credo che rispetto al problema del capo che ti stressa con le mail notturne, e può essere anche un collega, non è detto che sia il capo, si riconosca lo stress doppio, il suo del capo, ma anche quello che ha fatto venire a Laura. Umberta Telfner, che si fa in questi casi? Come si riconosce? Mi domando se è un pessimo capo o se si è un po' innamorato di Laura. E non la mettiamo subito sul sentimento, va bene che siamo donne, ma... Allora, che si fa? È molto interessante perché sembra quello che sta avvenendo è una mancanza di adattamento, no? Tra il contesto in cui Laura lavora e Laura, le sue abilità, le sue risorse. Mi sembra c'è proprio un disequilibrio tra le richieste e le sue aspettative. E io credo i capi vincono, però Laura rischia dei sintomi. E rischia, ne ha già dichiarato uno, che è quello dell'insonnia. Certo, e anche l'ansia che si ripresenta ogni mattina a doversi ripresentare nel posto di lavoro. E Vito Li Baudo, il romanzo a cui facevo cenno prima, La grande opportunità, ha un sottotitolo: può offrirti un sogno o un incubo, perché lui è il capo, e tu la sua risorsa umana. Ma il capo può davvero fare ciò che vuole, come diceva Umberta Telfener? Ahia, prima di tutto penso che sia un pessimo corteggiatore, riprendendo le righe della vostra, perché certamente mandare delle mail notturne dove si produce soltanto un sentimento di ansia piuttosto che di depressione non è un buon modo per approcciare una collega, che in generale è una cosa che un buon capo non dovrebbe fare. No, ma poi quelle sono mail di lavoro, le chiede costantemente del lavoro in più. E quindi non è certamente un buon modo per farsi notare. Un capo comunque ha il tema del raffronto con il proprio dipendente, è un tema classico su cui la letteratura manageriale, anche specifica e tecnica, si impegna, perché in effetti il capo crede di poter disporre dell'energia lavorativa per un nastro infinito di ore, e questo non è il modo migliore per sfruttare i propri talenti. E sicuramente il caso di Laura è un caso emblematico, perché è un caso che, come diceva prima la dottoressa, non fa che produrre una prima sintomatica reazione, quella della disaffezione al posto di lavoro, e la conseguenza che se ne ricaverà sarà poi una sua assenza anche magari prolungata dal mondo del lavoro nel momento in cui si crea uno stress importante. Ma senta, Ribaudo, esiste un test, no? Che si chiama valutazione dello stress lavoro correlato. Come funziona? Nelle aziende voi lo applicate? Sì, lo applichiamo, è dal gennaio del 2011 che è diventato un obbligo di legge, quindi lo applichiamo nella mia azienda, che è un'azienda editoriale. Ci sono meno sintomi da andare a rilevare rispetto ad altre aziende, soprattutto ad impatto lavorativo fisico. Si fanno ci sono delle scale ponderate con dei coefficienti, si deve valutare con il medico del lavoro e con i rappresentanti dei lavoratori, i famosi RLS, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, qual è la situazione di specie. E i tre indicatori primi che vengono presi sono proprio le assenze, quindi i certificati, le indisposizioni, le malattie, con lo smaltimento delle ferie. Se si vede che ci sono delle ferie che non vengono godute, significa quindi che i capi non mettono i dipendenti nelle condizioni di goderne, e questo è un indicatore che, insieme all'assenteismo, diventano i criteri con cui si va a valutare se un'azienda è in un coefficiente basso, medio, alto di stress. Di stress. Senta, Umberta Telfner, che cosa può fare Laura rispetto al fatto che le viene chiesto sempre di più, di lavorare sempre di più, che le ore di lavoro non bastano mai? Certo, è una bella sfida professionale, ma appunto mi pare che dalla lettera emerga la sua piena insoddisfazione. Non mi pare che sia gratificata da questa continua richiesta. Non sembra neanche sapere quali sono i vantaggi che ne può trarre, cioè non è frutto di una negoziazione con l'altro, che potrebbe invece portare, no, a una scelta di lavorare tanto. Invece mi sembra che è caduta proprio in un gioco relazionale in cui contiene l'ansia dell'altro oppure risponde all'ansia dell'altro. Io credo che l'unica cosa che può fare una persona in quei casi è quella di metacomunicare, cioè di comunicare sulla relazione in corso, cioè di raccontare quello che sta avvenendo e chiedere delle spiegazioni, se ne ha il potere, naturalmente. Possiamo fare un esempio? Cioè lei si bussa alla porta del capo e dice senta, caro dottor Pallini. Io sono felice che lei è qui, sento che si fida tanto di me, però vorrei capire quali sono le sue aspettative rispetto al mio lavoro. E fa quella che noi in termini psicologi chiamiamo una sorta di analisi della domanda o di contratto lavorativo su aspettative reciproche. Adesso vorrei sentire da Vito Ribaudo se è possibile farlo le aziende. Ma cioè come reagisce un capo se una bussa alla porta e dice guardi, io sto lavorando come una pazza ma non capisco bene dove stiamo andando, è così che bisogna parlarne? Sì, è corretto, il termine usato dalla dottoressa è molto bello, quello del contratto lavorativo, perché richiama anche temi di natura sociale o antropologica, quindi è proprio l'indicazione precisa. Un buon capo, come dicevo prima, non dovrebbe arrivare a girare il suo stress, perché uno che scrive le mail di notte. Sicuramente un problema con se stesso, o non è capace di pianificare, o non è capace di contenere, non so quale delle due. Vorrei comunicarvi che state parlando con una persona che purtroppo manda mail, non di notte, ma a tarda ora, a Gaia che lavora a questa trasmissione. E già mi aspetto che uscita da qui Gaia mi dica... Vediamo un po' di parlare di questo nostro contratto lavorativo, la vedo male, mi avete messo in grave difficoltà, ve lo dico, ecco. Vabbè, ma questa è anche una delle missioni della radio, quella di comunicare in trasparenza. No, per cui una... No, ma c'è anche da dire, io conosco anche il tuo modo di lavorare, perché siamo stati meta colleghi, ma quindi bisogna anche vedere che tipo di lavoro si fa. Un lavoro come quello della comunicazione del giornalismo è un lavoro 24 ore, 7 giorni, e quindi questo, come dire, non deve diventare una scusante, ma quando si lavora in aziende che parlano di comunicazione e il flusso del lavoro sotto è costante... io ricevo le mail di notte dal capo del nostro stabilimento, poverino, quando me le deve scrivere? Lui lavora di notte, quindi poi bisogna contestualizzare, ma certamente il caso di Laura è spiegato come un caso di una persona che avverte con disagio svegliarsi e trovare già 4 mail e poi prima di arrivare in ufficio altre 3, significa che il suo capo fa il suo stesso orario di lavoro che è relativo alla giornata odierna o tipica. Ecco, Maria? Si parla molto di burning out, no? Di gente che poi a un certo punto dà fuori di matto, ma non sarà che le aziende chiedono moltissimo ai loro capi, alle loro prime file, Umberta Telfner e poi Vito Ribaudo? Sì. Ma intanto volevo dire una cosa, che forse è vero che chiedi tantissimo a Gaia, ma credo anche che metti in atto delle strategie, tipo migliorare l'ambiente di lavoro, introdurre della flessibilità, avere dei momenti di condivisione, cioè puoi anche chiedere una delle cose troppo se dai in cambio qualcos'altro, no? Sì, per essere flessibili siamo flessibilissimi, guarda. E mi immagino che appunto chiedendo molto da un piano appunto di mail notturne poi ridisegni il contratto in altri modi anche. Guardando dal punto di vista del capo, spesso le aziende sono molto esigenti rispetto alle loro prime linee, li pagano molto bene, ma pretendono anche molto. E quindi il fenomeno del burning out di chi poi un capo che si sente una pressione notevole esiste, non no? Vito Ribaudo. Per riverberarla, sì, perché il meccanismo perverso che le società hanno creato e vi è più ora che soprattutto nel contesto occidentale si sta assistendo ad una crisi che è insieme congiunturale, strutturale, quindi la necessità di andare a recuperare margine, redditività, porta tutti a stare su piattaforme tremolanti e incendiate, quindi certo. Il problema è il contesto di fondo. A questo punto le società, per tutelare quelli che sono i risultati che hanno dichiarato e che devono fare, non fanno altro che premere sulla loro prima linea, la quale a sua volta, scendendo per i rami, lo farà sulla seconda piuttosto che sulla terza. Naturalmente, tornando all'inizio, è poi anche la relazione che si instaura tra le persone. Bussare a una porta, chiedere un colloquio a un capo e cercare di ritrovare una forma di armonia, forse anche solo quella di ricevere poi tutte insieme 7 mail alle 10:30, ma può darsi che questo possa essere un elemento di rassicurazione per Laura, e il capo potrebbe scoprire che è più efficace perché poi ottiene 8 risposte nel giro dell'ora successiva, mentre mandando certo. di notte resta sempre a porta in arrivo 0. Questo mi sembra un buon consiglio. In chiusura, Umberta Telfener, lei ha molti capi che vengono in analisi? Ho sia capi che segretarie e collaboratori frustrati, tutte e due. Io insisto molto, soprattutto con i collaboratori, sul concetto di mettere i confini, della capacità di mettere i confini, perché è ancora un mito italiano quello di dover lavorare fino alle 9 di sera. In America o in altri posti del nord Europa si guarda alla qualità della vita e si chiede che anche i collaboratori e i capi stessi posano la penna a una certa ora e si godono la vita, perché si sa che se sono capaci di godersi la vita, poi funzioneranno meglio il giorno dopo al lavoro. Ecco, questo è quello che ci piace molto, l'idea di funzionare meglio e di tornare a lavorare sorridendo il mattino dopo, perché visto che lavorare si deve, per chi ha la fortuna ancora di avercene un lavoro, lavorare con una pietra sul cuore, insomma, non credo che funzioni nemmeno per le aziende, no Ribaudo? Non funziona, produce inefficacia, produce rumore. Il malumore non agevola sicuramente il raggiungimento dei risultati aziendali. Lavorare in un clima positivo è sicuramente un ottimo sintomo di efficacia collettiva. Bene, e con questo messaggio, che è un messaggio diciamo incoraggiante, dopo aver cominciato con l'ansia da prestazione doppia, quella del capo che scrive mail notturne e quella di Laura che non ha più voglia di andare a lavorare al mattino, quindi invece finiamo con una nota incoraggiante. Io ringrazio Vito Ribaudo, ringrazio Umberta Telfner e auguro a tutti e due una buona domenica. Buona domenica a tutti. Grazie. Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuna è perfetta. Avete sentito il problema di Laura, sotto stress perché ha un capo ansioso? E mandateci i vostri commenti a questo problema, o se ne avete di vostri, scriveteci nessuna è perfetta @radio24.it. Scriveteci anche su Twitter usando l'hashtag Nessuna è perfetta o sulla nostra pagina Facebook. Ma io sono curiosa di sentire come la vede la nostra Carla Ciani, la coach di questa domenica. Buona domenica, Carla. Dalla lettera di Laura emerge uno stress che è privato, personale. Come si reagisce all'uno e all'altro in una condizione così? Sì, sembra che non sia uno stress da super lavoro, ma che sia uno stress generato dal comportamento del capo. Quindi bisogna distinguere, lo stress da super lavoro è uno stress purtroppo molto comune oggi, è uno stress che non possiamo tenere per molto tempo, quindi il super lavoro, se è protratto, purtroppo ci dice che c'è qualche problema nell'organizzazione. Non possiamo, le aziende questo lo sanno bene, non possiamo tenere per molto tempo un comportamento da task force, no? Perché certo. Poi la qualità ne risente, e quindi proprio le aziende prevengono questo tipo di compulsione, cercando insomma di dare delle risposte al mercato, ma anche di far lavorare le persone nella condizione corretta per poterlo fare con sostenibilità. Qui si tratta in realtà di una insofferenza, di un'ansia che viene generata appunto dal comportamento del capo. Quindi questi capi che mandano le mail di notte, di mattina, generano una sorta di rancore per l'invasione di uno spazio che non è quello che tipicamente dedichiamo al lavoro. Il capo è ansioso, manda le mail di notte. Ma forse non è un capo ansioso, c'è una certa tipologia, no? Mm-hmm. Ci sono questi capi, soprattutto quando arrivano in aziende nuove, che si esprimono per capacità, quindi pensano che così creare una continua connessione con le persone, essere virtualmente sempre presenti, questo insomma faccia risaltare la loro leadership. Purtroppo bisognerebbe dirgli che non è così, perché nelle competenze di un capo ci sta anche il rispetto e la cura delle persone e soprattutto ci sta una buona organizzazione. Ecco, ma il fatto che le mail vengano mandate è come un segnale di dire: guarda, sono qui che controllo che tu sia sempre connessa e sempre sul pezzo, come si dice. Sì. È una forma di ansia, no, del capo rispetto alle persone che lavorano con lui. È sicuramente una condizione ansiogena che però abbiamo tutto il diritto di interrompere. Nel senso che se non ci sono delle condizioni ben definite aziendali, non ci sono fusi orari, non c'è un senso di urgenza, contingenza, un capo che scrive di notte, assunto che magari sono quei capi che si ritagliano i loro spazi all'interno della giornata, ecco, allora lì è solo un comportamento che bisogna un po' fermare, con intanto non tenendo il cellulare sul comodino. Mm-hmm. E invitando il capo a magari avere dei momenti di confronto anche brevi per riepilogare un po' tutti i contenuti delle varie mail, perché spesso questi invii contengono anche informazioni frammentarie che poi si perdono magari, che poi si perdono, che le persone devono rimettere insieme, quindi basterebbe insomma chiedere al capo, ma non con ironia, con un genuino interesse perché le cose vadano meglio, come aiutarlo a gestire meglio e a far lavorare meglio. Per esempio, Laura, stabilendo, che ne so, un momento di briefing, un momento durante la giornata organizzato, non so, la mattina presto, no? Sì, sì. Anche i capi che scrivono tanto di notte non sono così mattinieri a volte, però fissare un appuntamento all'inizio della giornata, alla fine della giornata, per riassumere tutte le cose che eventualmente possono essere sospese o che richiedono un'attività aggiuntiva, cioè fare il punto, che è una gran bella abitudine, cioè chiudere quella posizione o capire quante sono aperte ancora. Questo mi sembra un ottimo suggerimento che viene dalla nostra Carla Ciani, la nostra coach di questa domenica. Io la ringrazio, auguro a lei buona domenica e a tutti voi. E ne abbiamo parlato tanto all'inizio, ma mi fa piacere ricordarvelo. Il multitasking è una fregatura, ce lo dicono pure dall'MIT, pensate. Buona domenica.